Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Lo sapete qual è il nuovo colore del pulito? Non più il bianco, ma il verde. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo del greenwashing, la strategia di comunicazione che fa delle ecobugie il proprio cavallo di battaglia. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo invece delle nuove abitudini di acquisto generate dalla crisi e per il focus sui trend di Ethno Pride, quando l'orgoglio etnico fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana. A causa della crisi, un cittadino su 5 è diventato tirchio. Lo rivela un'indagine del Codacons, secondo cui il braccino corto si manifesta ormai in molti aspetti della quotidianità. In calo del 30% le mance al ristorante, del 20% i caffè offerti al bar, del 15% regali, donazioni e offerte varie. Anche il vino si affida alla formula Pizza Express. L'idea è di tre giovani milanesi che hanno lanciato nel capoluogo lombardo Milano Vino, 3.500 etichette con consegna a domicilio gratuita in giornata. Conta già più di 1 milione di utenti soltanto negli Stati Uniti il nuovo controverso social network Chat Roulette. Nato solo 3 mesi fa, consente di fare incontri casuali con persone sconosciute via webcam. Cliccando sul tasto Next, si riavvia la roulette per cambiare interlocutore. Il sito è finito nel mirino di tutte le associazioni dei genitori. Tornano a crescere i consumi alimentari, ma cambia il carrello della spesa. Secondo la Confederazione Italiana Agricoltori, sono in calo gli acquisti di pane, pasta, carne, vino e olio di oliva, mentre aumentano quelli di ortaggi confezionati, preparati per risotti, piatti surgelati, salumi, latte, yogurt e frutta. Confermata la crescita dei discount e dei piccoli supermercati di prossimità, mentre non si arresta il declino del dettaglio tradizionale. Lancia cerca Trend Hunter. Dal web magazine Trend Visions, il nuovo progetto di comunicazione social web sfida i giovani talenti creativi a segnalare tendenze, immagini e contenuti. Si terrà il 12 e 13 giugno a Milano, Perugia e Palermo la seconda edizione di Alla Riscossa, i giochi d'assalto ambientale, ideati dal FAI in collaborazione con Telecom Italia ed esterni. Decine di squadre di tutte le età per una sfida alla scoperta di monumenti, luoghi e tradizioni. In palio biglietti d'ingresso nei musei, nei cinema e nei teatri, viaggi aerei e soggiorni all'estero. Iscrizioni sul sito allariscossa.it. La borsa della spesa. Professarsi amici dell'ambiente oggi, si sa, fa tendenza e per le aziende fa vendere, anche quando dietro alle parole purtroppo non c'è sostanza. Un fenomeno che gli esperti di comunicazione chiamano greenwashing, alla lettera lavaggio verde, la pennellata verde di chi vuole cavalcare l'onda dell'ecosostenibilità. L'abuso del trend è tale che in America, dove si stima che 4 consumatori su 10 scelgano i prodotti sulla base di parametri eco, se ne sta occupando la Federal Trade Commission. Anche in Inghilterra si sollecitano interventi normativi, mentre altri paesi come la Norvegia hanno preso decisioni drastiche: bandire ogni pubblicità di auto che abbia riferimenti all'ambiente, dato che tutte inquinano. Il rischio per il consumatore è quello di non riuscire più a distinguere chi è davvero green da chi lo dice e basta. La società di marketing ambientale Terra Choice ha passato al setaccio oltre 1000 prodotti, scoprendo che in 98 casi su 100 le eco pretese erano false. Ha poi individuato i 7 peccati capitali del greenwashing. Conoscerli significa capire se il messaggio che ci viene proposto è autentico o solo di facciata. Il peccato del compromesso nascosto. Viene esaltata una caratteristica ecologica per nasconderne una antiecologica più grave. Il peccato della mancanza di prove. Si evidenzia il risultato di un test effettuato sul prodotto senza citarne la fonte. Il peccato dell'imprecisione. Vedi espressioni come naturale al 100%, ma la lista degli ingredienti dice il contrario. Il peccato della non pertinenza o delle affermazioni irrilevanti. Non contiene sostanze nocive. Per forza, sono bandite. Il peccato dell'essere il minore tra due mali. Pesticidi ecologici, sigarette biodegradabili, auto poco inquinanti. Il peccato della deformazione dei fatti, prodotti che millantano riconoscimenti fittizi. Il peccato della falsa etichetta. Se la pubblicità parla di ecologia, è sempre meglio pensare male, dice Alice Audouin, manager di un'importante agenzia di comunicazione, autrice del libro appena uscito in Italia dal titolo Emily, ecologista in carriera. È davvero così? Ecologia e marketing non possono convivere? Lo abbiamo chiesto ad Antonella Carù, docente alla Bocconi, curatrice dell'edizione italiana di uno dei testi di riferimento dell'eco-marketing, Green Marketing Manifesto di John Grant. In realtà forse sono due visioni che si stanno avvicinando e possono trovare anche delle aree di incontro veramente importanti. La premessa è che forse i movimenti ecologisti, ideologicamente contrari al mercato, hanno perso un po' di radicalismo nel modo di guardare a questo fenomeno. Dall'altra parte il marketing è interessato a interpretare queste nuove tendenze, questa green economy che si pone da un lato come necessità, ma dall'altro lato anche come un'opportunità. Io credo che l'aspetto più rilevante però che i consumatori sono in grado ormai di riconoscere anche nelle aziende in termini di autenticità, di impegno nel campo del green, sia legata alla loro storia e all'impegno reale che le aziende hanno dimostrato nel tempo. L'aspetto importante è non pensare che la denominazione green in sé sia sufficiente per incentivare l'acquisto da parte dei consumatori. Credo che ci sia una macro tendenza che sottolinea l'importanza di questo aspetto, ma la necessità da parte delle imprese di fare in modo che questo trend si trasformi in un comportamento quotidiano da parte delle persone, con l'individuazione anche di un vantaggio legato al prodotto che acquistano in modo chiaro. Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo di crisi e comportamenti di acquisto. Mentre i politici ancora non si sono messi d'accordo se la crisi c'è o non c'è, se è davvero passata o meno, gli istituti di ricerca di mercato, che devono per forza vendere i loro dati, stanno sfornando nuove risultanze. Segnaliamo ai radioascoltatori quanto emerge da una ricerca della società di consulenza Pricewaterhouse appena sfornata. La crisi c'è e, come dice Price, e ha lasciato duri segni ben visibili sulla struttura delle attese sociali e di consumo delle famiglie e sui loro comportamenti di acquisto, ma nel frattempo si scorgono anche segnali di ripresa che vanno incrociati con i comportamenti. La ricerca di Price segnala soprattutto i comportamenti degli individui intorno ai 35 anni di età. Le loro linee guida nell'oceano dei consumi sono parsimonia e oculatezza. Il loro rapporto con la ripresa è spontaneo, poco obbligato dalle circostanze sovrastrutturali, perché sostenuto da necessità quotidiane. Hanno modelli di comportamento diversi dagli altri target, alla base c'è un consumismo pratico, prediligono le poche forme di everyday low price, prezzi bassi tutto l'anno, amano i factory outlet, le cittadelle del commercio dove acquistare prodotti firmati ma a prezzi fortemente ribassati. Sono molte le industrie, ma anche le grandi compagnie di servizio, che li stanno studiando con attenzione per incontrare i loro gusti e le loro attese. E questo è davvero il momento giusto. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, è arrivato il momento del focus sui trend in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Oggi parliamo di consumi etnici, prodotti e servizi che si rifanno a un'identità territoriale, culturale o religiosa ben precisa. Anzi, ne rivendicano l'appartenenza, tanto che avevamo già classificato questa tendenza con l'espressione ethno pride, orgoglio etnico. Si tratta di un mercato in crescita che comprende praticamente tutte le categorie di prodotti con strategie di marketing ad hoc. Patrizia. Parliamo di immigrati, che sono un segmento sociale, culturale ed economico sempre più importante e interessante per il marketing, ma anche per la comunicazione e per i consumi. Pensiamo che in Italia sono circa 4 milioni e quali che siano le stime di sviluppo demografico in proiezione, appunto gli immigrati avranno un ruolo fondamentale nei consumi futuri, anche tenendo conto, diciamo, di un'unica variabile, quella dell'invecchiamento della popolazione. Tutti i mercati, ormai senza eccezioni, si sono adeguati alle tecniche, appunto, del marketing multiculturale, da Hollywood, che ormai non concepisce più un film che non abbia nei ruoli principali, insomma, attori di colore, latino, asiatici, eccetera, alla moda, alle istituzioni finanziarie, bancarie, assicurazioni, che fanno sforzi notevolissimi per trovare il tono giusto, per entrare in sintonia appunto con le diverse aspirazioni dei consumatori etnici. Ai media etnici, quindi quelli dedicati specificamente agli immigrati e così via. Dunque, dal micromarketing si passa al marketing multiculturale, e adesso vedremo qualche iniziativa, qualche espressione. Il micromarketing era quello che consisteva nel modificare tatticamente un certo numero di elementi del marketing mix, quindi metodi di promozioni delle vendite diversi, una scelta di reti distributive specifiche, riformulare certe pubblicità nelle lingue delle minoranze, appunto uso di media etnici mirati, eccetera. Diciamo, le variazioni locali dei prodotti globali declinati su gruppi etnici nei diversi paesi. Facciamo un esempio prendendo il McDonald's. In Egitto il McFalafel, la polpettina di ceci medio orientale, in Canada il McLobster con l'aragosta, in Norvegia il McLax col salmone e l'aneto, e via discorrendo. Ibidem per la Coca-Cola, con le varianti Mecca-Cola, eccetera, o i gelati di Algida, o i prodotti di Procter & Gamble, eccetera. Nel gergo del marketing, quello che si chiama go local, quindi prodotti globali declinati in chiave nazionale. Invece un altro fenomeno interessante, che è appunto assimilabile a questa nuova dicitura marketing multiculturale, è costituito dalle linee di prodotti che ad hoc soddisfano bisogni specifici degli immigrati, anche in relazione appunto a tabù religiosi, eccetera, nei nuovi paesi di permanenza. Quindi fino a qualche decennio fa queste erano nicchie, ma adesso sono in costante espansione. Finita l'era del mass market, inizia quella del marketing multiculturale su tutte le linee di prodotti e servizi. Questa è la soluzione adottata dai più grandi gruppi industriali internazionali, tanto che per esempio si contano già centinaia di agenzie di marketing multiculturale d'impresa. Nelle stesse aziende esistono nuove figure professionali come i responsabili dei segmenti etnici, eccetera. Dunque, i consumatori vogliono prodotti realizzati a loro immagine e somiglianza, la massima personalizzazione e attenzione da parte delle aziende. Questo vale anche e soprattutto per i target etnici. Pensiamo al cibo e alle tradizioni alimentari, culinarie, dietetiche di queste nuove etnie, e dunque moltissime grandi aziende come la Knorr, per incontrare i gusti di milioni di ispanici americani trapiantati negli Stati Uniti, per esempio, ha creato prodotti ad hoc, la zuppa ai gamberi tipica del Sud America, o la Gerber ha una gamma di 16 varietà di vasetti omogeneizzati destinati a tutte le famiglie di diverse etnie, ma di nuovo Gatorade, gamma di bevande con gusti tropicali, eccetera. Gli esempi notissimi sono molti, e cambiando settore pensiamo anche ai prodotti come le bambole o i personaggi concepiti e messi sul mercato proprio tenendo conto dei tratti distintivi di queste diverse etnie. Già dagli anni 80 la gamma delle Barbie di colore, che però erano la Barbie semplicemente diversamente colorata, e poi le Bratz degli anni 2000, che riproducevano proprio la morfologia e il lifestyle latino, asiatico, afro, eccetera. Fino agli esempi più micro ma significativi proprio di questa customizzazione del quotidiano etnica, i cerotti del marchio Ebonade, colorati per adattarsi alle varie tonalità di pelle, e hanno queste 5 versioni, dalla liquirizia, la più scura, alla honey, al miele per chi appunto ha la pelle che non sopporta il sole. Tra i business in crescita si segnala quello dei giornali etnici, che contano, pensate, 15 testate nella sola Milano. Attirano lettori e pubblicità. E poi, lo accennavi anche tu poco fa, Patrizia, il mercato dei prodotti etnici, in particolare quello degli alimentari halal, destinati cioè ai consumatori di religione islamica. Un mercato che registra tassi di crescita intorno al 15% annuo. Il mercato europeo dei prodotti halal è stimato in 49 miliardi miliardi di euro, molto più del biologico per capirci, tanto che si sono affacciati anche marchi globali come la Nestlé. Nei supermercati italiani sono arrivati i primi corner dedicati a firma Coop. Testimonial dell'iniziativa il popolare presentatore Idris, eccolo al microfono della nostra Chiara Di Michele. Ma a dire la verità, insomma, i kosher c'erano già, cioè, i nostri fratelli ebrei. Io trovo che sia molto importante questo fatto qua a livello psicologico anche per noi, anche per l'inserimento, cioè, della nostra società. Ormai siamo in tanti e quindi è giusto che abbiamo anche noi in uno spazio, in luogo certi, igienicamente certificati. Cioè, io trovo che non è nient'altro che l'inizio di un percorso che avrà un grandissimo successo, perché gli imam della Toscana, della Romagna e anche del Lazio hanno certificato l'origine delle bestie e la loro macellazione. L'iniziativa ha avuto anche una coda polemica per le proteste degli animalisti sulla macellazione halal, proteste alle quali Coop ha poi risposto ribadendo l'impegno del gruppo in difesa degli animali. Patrizia, non è sempre facile trovare il punto di equilibrio sul piano sociale, lo sappiamo bene, ma anche su quello commerciale, come dimostra questo caso. Certo, non lo è. Proprio perché nella continua ridefinizione sociale e dei mercati ad opera della globalizzazione, i flussi migratori, eccetera, le opportunità di business legate alle identità etniche aumentano, però sono anche opportunità costitutivamente rischiose, proprio per questi attriti culturali delle loro ricadute proprio nel sociale, nel quotidiano. Nel panorama internet made in Olanda è comparso, per esempio, elazira.com, un sex shop online, assoluta novità nel mondo islamico. È stato realizzato il sito da un musulmano ortodosso trentenne che vive ad Amsterdam, dove è nato peraltro, e che pare intenda aprire anche una catena di negozi offline in Medio Oriente. Di questo suo business di e-commerce dice: non è un sex shop, e però su questo voluto o subito malinteso mediatico, diciamo occidentale, ha basato il suo enorme e repentino successo. Infatti le visite hanno superato il milione a poche settimane dall'apertura, tanto che a un certo punto addirittura crollato il sito per eccesso di internauti. Perché dice che non è un sex shop? Non c'è nessuna immagine, se non dei prodotti, legati al cosiddetto benessere sessuale. C'è anche una sezione di counseling. Dunque punta tutto su prodotti afrodisiaci, anche pochi per ora. Ci sono una quindicina di prodotti tra 9 e 80 euro con gioielli e lingerie in arrivo. Allora, dalle interviste al fondatore scopriamo che il permesso è stato rilasciato dall'imam, che però ha vincolato l'uso di questi prodotti alle sole coppie musulmane sposate. La polemica e le domande sono: trattandosi di acquisti online, come è possibile tracciare l'acquirente single, per esempio, e il relativo contesto d'uso, eccetera. Passando a esempi diciamo positivi, va ricordato il lavoro dei fratelli Campana, i brasiliani notissimi per l'utilizzo di materiali di scarto delle favelas riassemblati dalla gente del posto, che adesso producono con Edra. Li cito perché il loro lavoro vive di questa intima interdipendenza con l'ambiente indigeno d'origine, che ha generato e continua a generare il loro progetto. Altro esempio di ethno pride, di concetto di etnia utilizzato in chiave di messaggio culturale, è l'etnoparco Drvengrad, significa città di legno, costruito da Emil Kusturica, il regista bosniaco. Il luogo è Mokra Gora in Serbia, dove lui ha girato peraltro il film La vita è un miracolo. È un parco a tema, c'è la chiesa dedicata al santo protettore della Serbia, c'è un ristorante tipico, un negozio di prodotti locali e manufatti artigianali, c'è anche una sala cinematografica, una biblioteca dove c'è anche una scuola di cinema chiamata Transition, che simbolicamente segna questa evoluzione ma anche questa rinascita morale ed estetica, come dice lui, delle sue genti. Cosa c'è di nuovo a... arriva da Kuwait City la segnalazione su Ethno Pride e dintorni. In linea come sempre c'è la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano, bentornata. Grazie, un saluto a tutti. Dunque, Nora Delight viene dagli Emirati Arabi ed ha la capacità di scorgere la verità. Wildad Deloving è filippina e sa indurre le persone all'amore. Sami The Listener è nato e cresciuto in Sudan e poi si è trasferito in Francia. È muto ma può dire ciò che gli altri non riescono a percepire. Ognuno di loro ha un potere speciale. Insieme combattono contro il male, come ogni supereroe che si rispetti. E sono musulmani. Sono i personaggi creati da Naif Al-Mutawa e sono i protagonisti di The 99, i 99, la serie a fumetti che dal 2006 appassiona tutto il mondo arabo e non solo. Presto infatti diventerà un cartone animato distribuito in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. Ognuno dei 99 supereroi con i suoi poteri incarna i 99 attributi divini di Allah. Come abbiamo visto hanno provenienze molto diverse e in molti casi sono di doppia cultura, scelta che l'autore ha fatto deliberatamente per diffondere presso i giovani islamici il principio della tolleranza. Va da sé che per evitare censure le mise sono molto meno succinte di quelle dei colleghi d'oltreoceano. Batina la Nascosta, ad esempio, una delle protagoniste femminili, indossa il velo. Ma al di là dei dettagli stilistici legati alla tradizione, l'intento del loro creatore è proprio quello di esaltare attraverso le differenze i valori comuni e universali. Grazie Alessia. Patrizia, in qualche modo abbiamo già anche avuto occasione di dirlo, siamo oltre il melting pot, sì alla fusione ma senza omologazione, mantenendo le singole identità. È la formula su cui puntare, quella che avrà successo nel futuro? Sì, allora si usa una metafora appunto diversa che è quella del salad bowl della Macedonia o anche dell'insalata, cioè per dire che le identità rimangono distinte, quindi si può rivendicare l'orgoglio etnico, ma vengono giustapposte, prendono senso non isolate, ghettizzate, ma integrate, dove integrazione non vuol dire assimilazione, ma appunto integrazione del tessuto socioculturale del paese di accoglienza. Nel tempo, al crescere del radicamento, cresce anche, tornando ai consumi, l'entusiasmo aspirazionale per i consumi locali, quindi si allarga anche lo spazio per i prodotti fusion, pensiamo alla moda, al cinema, musica, cibo, cioè per quei prodotti ponte fra i sistemi del gusto, le culture, le tradizioni, quelle originarie rimaste intatte, che però diventano compatibili anche con quelle locali del paese di accoglienza. Quindi quando l'identità è salda e riconosciuta, la paura di fondersi, di confondersi, del melting pot diminuisce. Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it, dal quale potrete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Essere Avere, il nostro indirizzo di posta elettronica essereavere@radio24.it per le vostre idee, i vostri suggerimenti, e darvi appuntamento naturalmente a domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.